Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, settimana speciale quella che comincia oggi in collaborazione con il progetto Audi Innovative Thinking. Iniziamo decisamente facendo un salto nel futuro, quello dei trasporti aerei, con l'aiuto di Laura Merotto, ingegnere aerospaziale del Politecnico di Milano, che con i suoi lavori di ricerca si è aggiudicata diversi importanti premi per l'innovazione, dal premio AIA al premio iTwin al premio Verde Ambiente. Buonasera Merotto. Buonasera. Allora, lei è un'esperta di propulsione e ha studiato e perfezionato un particolare tipo di propulsore, detto propulsore ibrido, potenzialmente adatto sia per razzi che per aerei, che offre diversi vantaggi. Siccome è una specie di terza via tra le due tecnologie di propulsione tradizionali, direi di partire da queste, se ce le spiega molto brevemente. Sì, le due tecnologie tipicamente usate in modo tradizionale sono l'induratore a solido e quello a liquido. Nel caso del solido si tratta sostanzialmente... Quindi il combustibile che è solido, sì? Sì, di un combustibile solido in cui sono premiscelati i due ingredienti che servono per la combustione, cioè l'ossidante e il combustibile vero e proprio. Mentre nel caso del liquido c'è una struttura un po' più complessa in cui i due ingredienti sono liquidi e vengono mantenuti separati e mescolati al momento, sì, esatto, della uno combustione. Di questi sistemi chiaramente ha dei vantaggi e degli svantaggi. Che sono? Ecco, per quanto riguarda il liquido, dà delle prestazioni molto elevate, però ha un'architettura piuttosto complessa anche per la necessità di mantenere liquidi degli elementi che sarebbero gassosi. Sì, tipo l'ossigeno. L'ossigeno. E quindi insomma problemi di costo e di complessità, mentre il solido ha dei problemi per esempio di sicurezza, cioè ci possono essere delle esplosioni. Per esempio è impossibile arrestare la combustione, esatto, di un razzo a stato solido una volta che è stato acceso, perché non si può chiudere un rubinetto essendo già mescolati combustibile e comburente. Quindi veniamo al suo lavoro a questo punto, per cui ha ricevuto anche il premio iTwin, un motore ibrido a cera. Ci spiega? Sì, ecco, il motore che noi chiamiamo endoreattore ibrido è una soluzione tecnologica che è basata sostanzialmente sulla separazione fisica tra il combustibile e l'ossidante. Come avviene nei sistemi liquidi tradizionali, diciamo? Sì, però in questo caso c'è un combustibile solido e un ossidante gassoso, nel caso che ho studiato io, ma potrebbe essere anche liquido, che sono fisicamente separati, quindi nel momento in cui si interrompe l'afflusso dell'ossidante si può spegnere, certo, il motore e anche riaccenderlo e spegnerlo più volte. E anche questo costituisce un vantaggio. Certo. E il fatto di questa separazione conduce a una struttura di combustione che è diversa da quella delle altre due soluzioni sostanzialmente, quindi da lì discendono poi tutte le caratteristiche principali di questo tipo di motore. Che sono? Quindi? Che sono sostanzialmente un rischio minimo di esplosione, quindi una sicurezza intrinseca, diciamo, intrinseca molto interessante, la flessibilità perché si può, sì, spegnere e riaccendere più volte e controllare la spinta a seconda di quanto necessario, le prestazioni sono piuttosto elevate, potenzialmente paragonabili a quelle delle soluzioni più prestanti, sì, negli altri due casi, i costi sono più bassi e l'impatto ambientale è ridotto soprattutto rispetto alla soluzione a solido. Beh, insomma, un bel po' di vantaggi. Sì, tanto più che se si usa per esempio la cera, è un tipo di combustibile che permette prestazioni più elevate di altri combustibili tradizionali, è facilmente reperibile, ha bassi costi. E addirittura spesso uno scarto la cera, esatto, no? Stavo per dire che a volte si può anche recuperare da scarti di altre lavorazioni industriali, quindi si può un po' riciclare in qualche modo. Ecco, dal punto di vista delle emissioni inquinanti? Beh, naturalmente qualunque tipo di combustione produce, certo, qualche cosa che non è piacevole respirare, piacevolissimo, diciamo, se non altro la CO2, però rispetto per esempio ai lanciatori a solido che rilasciano delle quantità notevoli di sostanze molto tossiche, molto pericolose, ecco, l'ibrido non lo fa, quindi avendo, diciamo, più o meno la stessa emissione di anidride carbonica che può avere un sistema liquido, non ha il problema invece di tossicità di altre sostanze. Ecco, come mai oggi non ci sono però in giro, diciamo, questi motori, non vengono ancora utilizzati? utilizzati? Beh, sono stati fatti diversi test anche da aziende private che hanno testato per esempio il volo suborbitale per il turismo spaziale, quindi in realtà esiste e viene studiato da parecchi decenni, inizialmente un po' con poca fortuna perché non si riuscivano a ottenere delle ottime prestazioni, poi alcuni gruppi di ricerca americani hanno scoperto tipi di combustibili innovativi come le cere che potevano dare prestazioni maggiori e poi c'è stata comunque una maggiore attenzione negli ultimi 20 anni a quello che riguarda la sicurezza e l'impatto ambientale, quindi sono tornati un po' in auge anche per questa situazione. Grazie Laura Merotto. Grazie, arrivederci. Va bene, ci fermiamo qui, appuntamento come sempre a domani sera, buona serata. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.